Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. La necessità di garantire la sicurezza e l'integrità dei sistemi spaziali a fronte di possibili minacce dovute all'impatto con detriti spaziali oppure con i cosiddetti NEOs, cioè Near Earth Object, cioè asteroidi, comete o piccoli meteoroidi che transitano in vicinanza della Terra. Ebbene, questo tema è un tema di grande attualità perché il danneggiamento delle attrezzature nello spazio, che sono peraltro molto costose, può determinare l'interruzione dei servizi sulla Terra con minacce che ormai sono addirittura per la sicurezza delle attività umane. Il rischio peraltro che eventi del genere si verifichino è in costante aumento per via dell'enorme numero di detriti che le attività spaziali umane hanno lasciato in tempi storici, diciamo così, intorno alla Terra. E anche perché questo numero aumenta ogni volta che una collisione trasforma un singolo oggetto, magari di dimensioni medie, come un vecchio satellite, in una rosa di proiettili molto più ampia, quindi anche molto più pericolosa. Ecco perché la tesi di un laureando del Politecnico di Milano, che promette di contribuire a tenere d'occhio questa nuvola di detriti killer, chiamiamoli così, è valsa al suo inventore un premio prestigioso, il premio di laurea promosso dal Comitato Leonardo. Lui si chiama Vincenzo Pesce, oggi è un dottorando del Politecnico di Milano e naturalmente è in linea con noi. Buonasera. Buonasera, salve. E intanto complimenti. Grazie. Allora, qualche numero. Quanti sono questi detriti, per cominciare, che ci orbitano sopra la testa? Allora, non è mai facile determinarlo, ma direi nell'ordine delle decine di migliaia. Quindi sono gli oggetti che affollano le orbite attorno alla Terra. Ecco, decine di migliaia sono quelli pericolosi. Quando diventa pericoloso un detrito? Diciamo che gli oggetti pericolosi sono già da quando sono un po' più grandi del centimetro. Ecco, perché poi questi oggetti, ricordiamolo, viaggiano a 6, 7, 8 chilometri al secondo, no? Le velocità orbitali sono di quest'ordine di grandezza. Sì, sì, esatto. Ecco, quindi sostanzialmente un oggetto di 5-10 centimetri di diametro che viaggia a 7-8 chilometri al secondo, non c'è corazza che possa fermarlo, no? È distruttivo. Sì, esatto, è come un proiettile velocissimo. E poi c'è un problema addirittura di reazione a catena. Sì, esatto, proprio perché effettivamente se un detrito colpisce un satellite più grande, questo produce a sua volta altri detriti che possono andare a colpire altri satelliti e così via. Quindi la cosiddetta sindrome di Kessler, che quindi è una reazione a catena che si instaura, che potrebbe portare alla ultra sovrappopolazione delle orbite attorno alla Terra. A rendere inutilizzabile addirittura, diciamo nel caso peggiore, certe orbite. Sì. Ecco, allora veniamo al suo lavoro di tesi. In che cosa consiste? Come funziona? Praticamente l'idea era quella di voler dare degli occhi a dei satelliti per poter determinare la posizione, la velocità, quindi la traiettoria di un oggetto, di un detrito relativo che si trova nelle nostre vicinanze. Quindi come funziona? Ci sono due telecamere, così, no? Immaginiamo di avere un satellite con una coppia di telecamere. Esatto, una coppia di telecamere che acquisisce delle immagini, le processa in maniera tale da appunto ricavarne delle informazioni di traiettoria e di moto angolare di questi detriti. Fa lo stesso lavoro che facciamo noi col cervello, che però, come dire, è molto abile nel fare questo tipo di attività quando, non so, stimiamo la traiettoria di un pallone su un calcio d'angolo. Sì, esattamente, un po' la stima, capire come si muove un oggetto solo guardandolo, che non è una cosa, può sembrare banale, ma non lo è per una macchina o per un computer. Quindi sostanzialmente è un algoritmo corretto che consente a un satellite di determinare la traiettoria degli oggetti che gli passano vicino e che lui vede attraverso questa coppia di telecamere. Esattamente. Ecco, qual è l'impiego? Ok, io vedo che c'è una roba che va in quella direzione, che me ne faccio di questa informazione? Allora, senza dubbio è importante conoscere con precisione la traiettoria di questi oggetti per monitorarli. Quella è la prima cosa e poi nel futuro si pensa di poterli catturare, quindi questo algoritmo servirà nelle fasi precedenti alla cattura. Cioè sarà utilizzato questo algoritmo dal satellite che si occupa fisicamente di catturare questi oggetti, no? Proprio per riuscire ad avvicinarci con precisione. Ecco, e tra l'altro voi in realtà non determinate solo la traiettoria, ma anche delle altre caratteristiche rilevanti di questi detriti. Sì, soprattutto riguardo le proprietà di inerzia di questo corpo, che praticamente ci consentono, una volta acchiappato, quindi una volta preso nella rete o preso attraverso un braccio robotico, no? Queste sono le ipotesi. Sì, ci consente di capire come si comporterà questo corpo a contatto con il nostro braccio robotico o la nostra rete. Perché per esempio se ruota e ha la forma, diciamo così, di un manubrio per sollevamento pesi o di una palla, il comportamento è molto diverso, no? Voi dite, prima che si spacchi qualcosa. Tempistiche, quando potremo vedere il suo algoritmo all'opera, ma anche questi satelliti all'opera che si occupano di rimuovere detriti? Allora, l'idea, secondo l'Agenzia Spaziale Europea, è quella di lanciare un satellite per la rimozione dei detriti nei prossimi 5-10 anni. In particolare per rimuovere il satellite Envisat, che è uno dei detriti più pericolosi che orbitano attorno alla Terra. Va bene, grazie Vincenzo Pesce e avanti così, mi raccomando. Grazie, grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata a voi tutti.